Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera, bentornati qui a Ethno Chic. Questa sera abbiamo due ospiti speciali che sono i componenti del gruppo Arduo, o meglio Arduo, giusto? Arduo. Rocco Casino Papia? Giusto. Buonasera a te, buonasera anche Alberto Capelli. Buonasera. Come vediamo qui sul sito, la frase di Antonio Gramsci, sincerità, spontaneità, originalità, ecco ciò che è veramente difficile e arduo. In realtà io, piuttosto che arduo, che ricorda appunto il fatto che siete in due, è il discorso dell'arduo, giusto? Esattamente, proprio arduo noi l'abbiamo inteso subito. Pensa che abbiamo trovato il nome arduo prima di renderci conto che era Alberto e Rocco Duo. In realtà abbiamo scelto prima il significato della parola arduo perché era un po' difficile sia incontrarci, perché io vivo a Barcellona e Alberto a Loiano. Ma anche proprio il repertorio, l'idea di arrangiare per due chitarre, tutti insomma eravamo lì che un po' autoironicamente l'abbiamo definito arduo e poi ci siamo resi conto che era Alberto e Rocco Duo, cioè, era... E siete qui perché state presentando questo disco che fra pochissimo apriremo dal vivo, questo, cioè, io non sto nella pelle, questo primo gruppo di CD insomma appena freschi di stampa e che in realtà usciranno, come dire, ufficialmente lunedì, giusto? Sì, il disco uscirà lunedì, sia fisicamente, cioè in realtà dal cartone uscirà in questo momento, fra 5 minuti, e uscirà lunedì anche sulle piattaforme digitali, su tutta la distribuzione, insomma. E lunedì voi sarete al Bravo Caffè qui di Bologna a fare un concerto. Sì, esattamente. E stasera mettiamo invece... Stasera... Il primo nazionale a Bologna, qui al Bravo Caffè. Stasera invece iniziamo questo piccolo giro che facciamo di riscaldamento, al magazzino parallelo di Cesena. Cesena, esatto, sì, perché in realtà noi siamo in registrato, quindi non, i nostri ospiti non hanno il dono dell'ubiquità, ma stasera li potete sentire, possiamo dire, in questo in radio, ma anche suonando a Cesena, quindi suoneranno stasera in due posti diversi e questa è un'altra, è una cosa che non ci dispiace affatto. È ardua anche questa da è fare, una cosa molto ardua. Ebbene, partiamo proprio con un brano da questo disco che si chiama Alcord e che è un brano di Alberto Capelli. Sì, questo brano è un brano che ho scritto per un quintetto col quale ho suonato molto, col quale ancora suono, che ho formato alcuni anni or sono. E questo è il nome del gruppo, si chiama proprio Alcord, e questo è il brano omonimo del gruppo, del quintetto. Che abbiamo un po' rivisto queste due piccole orchestrine portatili, che sono le chitarre. Bene, andiamo ad ascoltare questo primo brano. Thank you. E quindi abbiamo ascoltato Al Cord dal disco che come si intitola, Rocco? Il disco in maniera molto originale si intitola Arduo. Ok, quindi praticamente il primo disco è omonimo. È disco omonimo. Esatto. Omofobo. E questo brano dicevi che era, Alberto, dicevi che è un brano che hai suonato un quintetto? Questo brano sì, l'avevo arrangiato per quintetto, quindi con due archi, violoncello, violino, chitarra classica, poi c'è nel gruppo c'è anche una ritmica jazz, contrabbasso e batteria. E c'è da dire che in questa, cioè, quello che vi accomuna è appunto anche questa ricerca sonora sugli strumenti, infatti voi suonate le chitarre classiche ma non soltanto, poi andremo a parlare meglio di alcuni brani. E quindi ci suonerete anche dei brani dal vivo, tra cui questa Sale, che mi pare in questo caso è un brano tuo, giusto Rocco? Sì, questa è la mia composizione, è un po' nata in un periodo un po' strano dove fondamentalmente non stavo molto bene di salute, ogni volta che mi mettevo a suonare finivo di suonare che avevo la febbre. Ah. Non lo so, andava così in quel periodo. E uno quindi, stato emotivo febbrile. Sì, psicofisico, psicomusico, qualcos'altro. E quindi ho scritto questo pezzo che è Sale, perché è uno studio in realtà, è uno studio su una progressione cromatica continua, che era anche questa cosa di questa temperatura che saliva e da lì... Un po' come dentro lo studio quando... Un po' come adesso che ci sono 47.000 gradi qui dentro, esatto. Più o meno è il pezzo giusto, speriamo che... Allora andiamo, insomma, poi alla fine ascoltarvi. La tachipirina e poi continuiamo con altri brani. Ma infatti al disco ne alleghiamo una tachipirina. Sì, in omaggio. Sì, in omaggio, sì. Con la data di scadenza però in quel caso. Scaduta, già scaduta. Ah. Ok, fa il doppio. Esatto. Thank you. E siete sempre su Radio Città del Capo, Etno Chic, musiche a indicazione geografica protetta. Siamo con gli Arduo. Rocco Casino Papì e Alberto Capelli, che ci hanno fatto sentire dal vivo Sale, questo brano di Rocco, del loro CD omonimo, che presenteranno lunedì al Bravo Caffè di Bologna e che adesso andiamo un po' a scoprire proprio in modo fisico. Oddio, come farei questa apertura del pacco fragile. Aspetta, che però facciamo una cosa super social e facciamo anche un video mentre lo facciamo, e lo farà Alberto. No, fai il tuo video. No, io voglio aprirlo. No, io sono andato a prenderlo. Ancora tu non l'hai aperto? Eh no. Maledetto. Certo, l'ho Vabbè, preso. Lo aprirà Alberto. Lo aprirà in diretta. Aspetta. Allora, aspetta, bisogna sentire con l'unghia. Vai. Secondo me potresti utilizzare uno di quei plettri da unghie. Esatto, quelle della mammina. Signore e signori, questo è un momento importantissimo, perché adesso uscirà e il CD sarà sbagliato, sarà quello di Laura Pausini. E lo ascolteremo tutto. 6 milioni di copie e noi lo ascolteremo tutto qui a Apple. Attenzione, pare che ci sia scritto Arduo. Esatto. Ed eccolo. Bellissimo. Bello. A proposito, volevo chiedervi, ma la copertina che ho visto in anteprima, insomma, come PDF, come immagine, eccetera, chi... È stato un artista che l'ha disegnato. Sì, è un artista, è un pittore molto bravo che si chiama Vanni Spazzoli ed è, diciamo che l'etichetta è Simple Lunch di Marco Del Pane e sì. Riccardo Nanni hanno cortesemente, hanno chiesto appunto a questo artista di poter praticamente regalare le sue immagini, i suoi quadri, che poi tra l'altro sono enormi, che poi vengono ridotti alla forma di un CD, ma in realtà sono veramente grandi, è stato così gentile da appunto donarli. Infatti quasi tutti i dischi di A Simple Lunch vengono presentati con questi dipinti in copertina. Infatti praticamente rappresentano, insomma, delle figure come di animali, di pesci, giusto? Questi sono degli squali. Due squali, sì. Sono due squali che si stanno per sbranare, mordaci, esatto. Oppure mordere le corde della chitarra. Sono molto buoni. C'è uno che sta per mangiare un pesce, ma forse non lo mangia. Ma forse no. Lo sta un attimo spaventando, giusto per. E giustamente i nostri musicisti stanno godendo un po'. No, sì, siamo un po' distratti perché il packaging, giustamente, che è anche il bello, insomma, di un disco, che giustamente è un disco poi ricco, insomma, ci sono delle foto, ci sono queste illustrazioni di questo pittore, poi c'è un testo, insomma. Ma c'è il disco? Dov'è il disco? Abbastanza elaborato. E giustamente c'è il disco. Che... E noi appunto andiamo a ascoltare in anteprima. Anche... E mentre voi giustamente vi guardate bene, insomma, quello che, c'è il disco, direi che possiamo andare a sentire un altro brano dal famoso CD. Di Arduo. Che brano era? Era Frascoli, forse? Ah, Frascoli lo presenterà il maestro Capelli. Questo brano è un brano che ho scritto in realtà per un'altra cosa, che era uno spettacolo teatrale con Giuseppe Cederna sulla Prima Guerra Mondiale, che si intitolava L'ultima estate dell'Europa. Abbiamo fatto la tournée un anno fa ormai, è stata molto lunga e molto bella, penso. Frascoli era un sottotenente dell'esercito italiano partito sul fronte sotto il Monte San Michele, quindi in Friuli, mi sembra. Comunque, sì. Questo sottotenente era pieno di illusioni, questo ardore patriottico, appunto, che lo spingeva appunto a essersi arruolato volontario. Poi, è stato 3 giorni al fronte, ha scritto delle lettere bellissime, molto, molto commoventi, di cui abbiamo ancora, appunto, che abbiamo ritrovato, appunto. E in queste 3 lettere, appunto, c'era questa attesa spasmodica anche di entrare in azione, no? Perché lui voleva in qualche modo. Chiaro, perché lui era convinto che. Sì. Insomma. Poi dopo è venuto il giorno del combattimento, lo hanno come carne da macello, venivano buttati nelle trincee a centinaia, migliaia contro le mitragliatrici nemiche, e quindi la prima battaglia è morto immediatamente, subito. Quindi non ha avuto neanche il tempo di rielaborare tutto quanto come Ungaretti, insomma. No, perché Ungaretti era un ufficiale. Lui invece era un soldato. c'era il generale italiano, come si chiamava? Cadorna, che diceva calcoliamo la portata di una mitragliatrice, quanti proiettili può sparare, e noi mandiamo un numero superiore di uomini di questa mitragliatrice e riusciremo a vincere la battaglia. Questa era la proporzione con cui si dava valore alla vita umana. E andiamo quindi ad ascoltare. No, assolutamente, direi proprio di no. Semplicemente non lo calcolano più. Adesso ci sono le bombe chirurgiche, esatto, umanitarie. Certo. Andiamo a sentire Frascoli. Ed eccoci di nuovo in diretta, con qualche secondo di ritardo, mi ero accorto che era finito il brano. Stavamo amabilmente chiacchierando. Stavamo giustamente chiacchierando un po' di varie cose, perché giustamente questa musica, come dire, è un po' difficile, di solito si parla e sostanzialmente ci sono degli argomenti, no? Quando si hanno degli ospiti, insomma dei temi che richiamano la musica che si è ascoltato, oppure strumenti, oppure le culture di chi passi qua. In realtà qui ci sono tante cose, insomma, che abbiamo già toccato, e altre ancora che andremo a toccare, perché appunto poi Alberto suonerà uno strumento particolare che ci presenta. E quindi, insomma, è una cosa che appunto mi era venuto un po' in mente subito quando, insomma, oggi mentre stavo venendo qui, era il discorso sostanzialmente che avendovi ascoltato anche in concerto in anteprima, si sente molto che l'impronta di questo legame con la cultura del flamenco, mm-hmm. insomma, che poi è un qualcosa che ha caratterizzato anche molto del vostro stile, insomma, come strumentisti. Beh, diciamo che per quel che mi riguarda sono tanti anni che ho approcciato questa musica, appunto il flamenco, ci sono stato dentro fino al collo, adesso sto un po' scendo fuori dal tunnel. Stai provando a smettere. Però è arduo. E diciamo che sì, in certi pezzi viene fuori, che poi proprio soprattutto suonando la chitarra classica, diciamo che la tecnica che io ho imparato sulla chitarra classica ha coinciso con la tecnica del flamenco, perché io sono, in realtà sarei un chitarrista elettrico, vengo dal jazz, che continuo felicemente a fare. Però diciamo che ho approcciato la chitarra classica ormai più di 25 anni fa o 30, non mi ricordo più ormai, e con appunto lo studio del flamenco, poi col lavoro del flamenco, con tutto quello che comporto, ho lavorato con molti artisti anche andalusi, spesso sono andato lì in Andalusia a suonare, a accompagnare dei cantori, dei vari lavori, eccetera eccetera. Poi questo appunto ha anche influenzato per il mio modo di scrivere certe cose. In realtà io scrivo anche cose molto diverse, però a volte scrivo delle cose più improntate appunto alla tecnica e al sentire flamenco, cercando ovviamente di spingere sempre un po' al bordo per non far finta di essere chi non sono in realtà. Non sono certo un gitano andaluso, vengo da tutt'altra esperienza, tutt'altra vita, per cui, però insomma, ovviamente cerco di metterci del mio in questa cosa, senza peraltro riuscirci comunque. Che poi sì, la cosa che comunque andando in Spagna, insomma, spesso ho visto che comunque la cultura del flamenco è abbastanza, cioè è un qualcosa, un linguaggio che è sentito molto come conosciuto, con qualcosa, cioè entri in un negozio di dischi, vai a vedere la parte flamenco, trovi una persona che con una gran competenza e pensi, beh, però forse in Italia su un linguaggio tradizionale qualsiasi tipo non sarebbe così facile entrare in un qualsiasi negozio e trovare, guarda, uno che passa e che ti dà tutte queste, la ragione che è così appassionato, insomma. Innanzitutto il flamenco non è fondamentalmente una tradizione culturale spagnola, cioè, esatto, nel senso, gli spagnoli non conoscono il flamenco quanto noi, nel senso che io vivo a Barcellona, a parte che loro sono catalani, hanno, sì, quindi appunto, tutta questa tematica identitaria diversa, però comunque al di là di questo, anche a Madrid, se uno va a Madrid, loro conoscono magari il folklore, conoscono le sevillanas, conoscono il paso doble, sì, però il flamenco lo conosce chi ne sa di flamenco. Però questo sì, quello che dici tu è giustissimo, perché a differenza delle nostre musiche popolari, le nostre musiche popolari sono praticamente appannaggio solo di ricercatori, di cultori, o di gente che le fa vivere in piccole riserve indiane, insomma. Sì. Mentre lì il flamenco in tutto il sud e anche in parte di alcuni paesi vicino a Barcellona è vivo, realmente è ancora un materiale culturale vivo, fertile, vissuto quotidianamente dalla gente, quindi questo lo rende effettivamente un po' più forte, sì. Perché in più, come dicevi te, non è una cosa esotica. In Italia proprio è relegato nell'alveo che cazzo fai, cosa fai, perché fai questa musica, in Italia proprio siamo un po' la provincia dell'impero, per cui va bene il jazz, va bene il rock, va bene tutta la musica anglofona, sì, però sostanzialmente l'ho suonata anch'io, chiaro, però sì, però appunto a volte, cioè i linguaggi anche non molto lontani da noi sono tantissimi e le strade sono veramente così, però qua non c'è assolutamente coscienza di questo. Ci sono dei piccoli rivoli di ci sono delle nicchie, dei canali, però rimane comunque il fatto che i materiali culturali proprio di altre culture, anche se vicinissime, a est o ovest, a nord o a sud, che si diciamo a est o ovest e a sud, perché a nord abbiamo un'attenzione diversa verso il nord in generale, vengono sempre vissute come folklore, vengono sempre vissute come cosa che fai, come minore, sì. Come una cosa minore, per cui appena senti, capito, il ciclone. Oppure senti un buzzuki greco e dici Zorba il greco, vabbè, oppure sì. Senti un melisma un po' arabo e dici gli incantatori di Serpenti. Sì, il classico, poi la musica balcanica, che sembra che c'è solo Bregovic. Bregovic, cioè, anch'io ho suonato tanto tempo musica balcanica, cioè comunque ci si scontra sempre, noi anche nel diffondere questo nostro duo, spesso ci scontriamo verso questa cosa, cioè che appena si sente un po' di sonorità afflamencata, perché Alberto porta questa cosa, mentre io porto più un discorso della musica brasiliana, suonando la sette corde e così, e subito viene da fate flamenco, e ha voglia a spiegargli che non facciamo flamenco proprio perché conoscendo il flamenco è un'altra, sì, è perché un'altra loro cosa. Non si rendono conto che c'è una tradizione, che è un'altra cosa, e che giustamente voi invece fate un percorso siamo quello che siamo, è che è arduo, è proprio per quello è arduo, anche quella è la parte più ardua, direi, quella da spiegare, sì. Sì, alla fine noi ci proviamo un po' qua. E suoniamo? Suonate. A questo punto cosa suoniamo? Io direi, posso lanciare io tipo presentatore, signore e signori, visto che parlavamo di flamenco, una composizione di Alberto, molto bella, posso dirtelo così in diretta, ti emozioni, che si chiama Seria Blu, che è l'anagramma in realtà, se non mi sbaglio, di Bulerías, che è un palos del flamenco, giusto? Sì. Mi sbaglio? Diciamo che la Bulerías, diciamo, è una cifra stilistica molto adrenalinica, molto veloce, fa parte dei canti di festa, per cui ricordiamoci che il flamenco è sempre cante, questo quindi non è flamenco, cioè prende lo spunto da questa cosa, ma in realtà è altro, però quindi fa parte dei canti di festa, de fiesta, per cui ha delle lettere molto, cioè le lettere di testi sono molto in realtà anche così, che fanno più riferimento a un suono, onomatopea, più che alla pregnanza del testo, no? Che invece riguarda invece il cante hondo, che tratta dell'oppressione proprio di un popolo tale quale, quella che è stata del popolo dei afroamericani, certo, in America, nel sud dell'America, nel sud degli Stati Uniti. È strano parallelismo comunque fra appunto il blues, il jazz, diciamo, degli albori come canto di musica di liberazione, la stessa cosa, il cante hondo che narra appunto bambini morti, sepolti nelle miniere, arresti, torture da parte delle forze dell'ordine, assolutamente arbitrarie, persecuzioni, sì, del popolo gitano, che appunto ricordiamo che è un popolo che viene dal, che è migrato più di 1000 anni fa dal Rajasthan, del nord, che ha fatto tutta l'Europa, tutto il bacino mediterraneo, per poi stanziarsi da, mi sembra, 400 anni che è lì in Andalusia. Questi Rom che arrivano in questi periodi, poi noi ne sappiamo qualcosa, no? Perché queste rivolte fomentate da questi personale fascisti della prima ora, dell'ultima ora, sono veramente tristi e basta, è triste. E andrebbero, sì, seppellite. Sì, andrebbero seppelliti loro, sì. Esatto. E le loro. E i loro padrini politici, a cominciare da Salvini e tutta questa compagnia. E quello, il personaggio squali. Bene. Suoniamo. Ora suoniamo un po' di... Suoniamo. Seria Blu. Seria Blu. Thank you. questa era Seria Blu dal disco Arduo degli Arduo, che sono qui in studio con noi a Ethno Chic su Radio Città del Capo. E, dicevamo che appunto tu suoni anche la chitarra a sette corde, giusto? Sì, io suono la chitarra a sette corde, che è una chitarra che io ho conosciuto in Brasile suonando chorinho, che è una musica nata a cavallo del Novecento a Rio de Janeiro, dove la chitarra a sette corde fa un lavoro di commento di bassi alle melodie, diciamo. E poi in realtà io, un po' per avere uno strumento un po' diverso, una roba e l'altra, mi sono fatto costruire questa chitarra, che è una flamenca a sette corde, che è una cosa abbastanza inedita, cioè, non, sicuramente c'era qualcun altro, non voglio dire, però, che è quindi una chitarra più aggressiva, più leggera, così, però sempre con un basso in più. La settima corda è un basso in più. E la declino un po' alla mia maniera, ovviamente non la suona la shoro, questo era un tentativo appunto di suonare un flamenco un po' di shoro, io lavoravo molto sui bassi, e quindi sì, insomma, è diventato il mio, da un po' di anni è diventato il mio strumento principale. Tuo strumento principale, sì. Perché appunto ti permette di lavorare molto sugli alti e ma anche sui bassi. Sì, guarda, io penso che, uno che è un grande esponente della chitarra a sette corde brasiliana di adesso, che è Yamandu Costa, sì, che è bravissimo, meraviglioso chitarrista. Sì, che è conosciuto anche perché è lui che c'è nel film, quello di... Il Brasilerino, di Kaurismäki, sì. Mm-hmm. E, ma attualmente sta diventando un fenomeno, cioè è diventato veramente una star internazionale. Sì, e lui dice una cosa, sì, lui è un mostro. Non ha tanto bisogno di presentazione. No, gli dice niente, Yamandu ormai. Però lui dice una cosa molto bella, che dice che appunto la chitarra a sette corde è una chitarra sinfonica, proprio per questa cioè questa corda in più apre delle possibilità espressive molto interessanti, e io sono d'accordo con lui, sì, devo dire, sì. Sì, anche perché è bello, cioè anche questo fatto di lavorare sugli strumenti, no? Su cambiare gli strumenti, sì. È una strada che sicuramente è molto interessante. Sì. Infatti noi, proprio l'idea nostra è quella di costruire un repertorio sui nostri strumenti e sui nostri stili. E insomma ci abbiamo lavorato un bel po' e alla fine abbiamo tirato fuori questo progetto e questo disco. Adesso andiamo appunto a Cesena, poi a Roma a fare un po' di concerti, poi il 15 al Bravo Caffè, lo ricordiamo, venite numerosi, accorrete, e poi il 18 a Firenze. All'appartamento, esatto. Mi ricordo. No, all'appartamento, un locale. Sì, lo so. Sì, no, ma è conosciuto l'appartamento perché fa tutta una programmazione molto particolare. È forte, sì, è un bel posto. Due ragazze molto simpatiche, molto intelligenti, che fanno varie cose, tante cose, laboratori, di tutti i tipi, ascolti, conferenze. Sì, no, ma infatti è conosciuto, cioè lo conosco, se lo conosco solo io. Perché... Sei mai stato? No, non ci sono mai stato, per Firenze mi manca un po' il giro fiorentino. Ma questo è normale, cioè da Bologna, chi è che va a Firenze da Bologna? Non so perché, però purtroppo non c'è tanta comunicazione. Cioè a Roma, Milano, la provincia, sì, Venezia. Io ho tanti amici e tra l'altro un quartetto di nuova formazione di quest'anno con musicisti fiorentini. Abbiamo suonato la settimana scorsa al Binario 69, un quartetto jazz un po', sì, d'avanguardia, un po' così. Mm-hmm. E io infatti parlando, cioè notando che appunto i musicisti di Bologna non hanno nessun rapporto mai con quelli di Firenze e viceversa. Io ce l'ho perché ho vissuto 7 anni a Colle Valdelsa, vicino a Siena, e per cui in quegli anni lì ho creato una serie di amicizie, di rapporti, perché ancora adesso che sono, non ci vivo più da 20 anni, però certo, insomma ci si rivede, in realtà poi è vicinissimo, a parte che io sto a Loiano appunto in 3/4 d'ora sono a Firenze. E che dite? Mettiamo un ultimo brano dal disco, sì, che potrebbe essere la Danse du Bonheur, per esempio, dicevate? Sì, sì. Questo è un pezzo di John McLaughlin, che è un grandissimo chitarrista inglese. Nel disco ci sono 8 pezzi originali, cioè 8 nostre composizioni e 2 invece, come si può dire, cover, insomma, due reinterpretazioni, omaggio mi piace, due omaggi, uno a un personaggio che per me, ma anche per Alberto, insomma, è stato molto folgorante, che è Egberto Gismonci, certo, brasiliano, un compositore meraviglioso, nonché chitarrista e pianista pazzesco, che è Segua d'Eraldo, che è un brano contenuto in un vecchissimo disco suo, e l'altro è proprio questo, che è La Danse du Bonheur, che è di McLaughlin quando fece questo progetto che si chiama Shakti, con vari musicisti indiani, dedicato alla musica indiana. Noi abbiamo, Alberto suona questa chitarra che si chiama Moanvina, che in realtà non è una chitarra, è un incrocio tra una chitarra, un sitar, un aeroplano. È della famiglia delle vine, cioè, che appunto sono questi strumenti che si suonano orizzontalmente, fanno parte di strumenti archetipici indiani. In realtà la rudra vina e la vicitravina sono due strumenti enormi. Sono quelli che hanno sotto quelle specie le di palle, zucche. Esatto. Le due zucche, sono sempre la cassa armonica degli strumenti, sono sempre delle zucche. Delle zucche, tutte queste casse armoniche, e hanno queste corde molto, molto grosse, e si suonano questo cristallo a mo' di slide, diciamo, nella parte della mano sinistra, che produce questi suoni ctoni proprio bassi, gravissimi, e questa invece è spostata a un registro superiore, quindi diciamo più da chitarra, quindi medio acuto, diciamo da soprano, direi. Sì, che poi l'idea di fare questo pezzo nasce dalla tua, dall'invidia, no? Poi, sì, ma vabbè, questo preferirei non dirlo. No, io invece pensavo che proprio essendo online... Vuoi fare questo... Ma sai, la gente interessano tutte queste cose un po' morbose che ci sono all'interno delle band. Ho preferito non parlarne. Però, vabbè, comunque, Alberto non ha mai sopportato il fatto che avessi una corda in più, e allora lui si è presentato con una chitarra con 20 corde, una Moanvina a 20 corde. Quindi ci aspettiamo una chitarra con 30 corde. Adesso la mia prossima chitarra me la sta facendo con costruire. Esatto, a 4 manici, e fa anche il caffè. Stanno portando i pezzi con un B52. Caffè con le ciambe. Esatto. Bene, quindi andiamo a ascoltare questa Danse du Bonheur. Thank you. E questa era la Danse du Bonheur di John McLaughlin, che era appunto uno dei brani che compongono questo disco degli Arduo. E a questo punto vi salutiamo, che incombe il giornale radio, e come dire, vi facciamo i nostri migliori auguri per questa tournée e speriamo di vedervi di nuovo qui in studio da noi, che grazie, siete sempre graditi ospiti. Grazie, speriamo di tornare presto. Una buonanotte a tutti. E ci vediamo al Bravo Caffè lunedì sera, giusto? Giustissimo. Orario? 21.30. 21.30, arrivate un po' prima e prenotate. Perché ci beviamo un barbon insieme. Esatto. Buonanotte a tutti.